Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Questo è Jolly Roger. Oggi puntata speciale insieme a Totem e proseguiamo con la sigla e torniamo in diretta fra pochissimo. Buonasera a tutti, eccoci qua, siamo in diretta dal Brancaleone, questo è Jolly Roger in versione originale in parte, diciamo che il progetto è quello originale, è spostato al venerdì, però oggi abbiamo degli ospiti che ora ci illustreranno di cosa si tratta Totem in particolare. Passiamo il microfono alla nostra amica Aurora, Greta, scusate. Un proverbio africano ci ricorda che per crescere un bambino abbiamo bisogno di un intero villaggio. Ecco cosa manca spesso nei nostri quartieri, un villaggio dove i bambini e i ragazzi possano crescere e trovare risposte ai propri bisogni e desideri nell'epoca delle incertezze. Da qui nasce il progetto Totem, un progetto triennale che ha coinvolto le scuole di tre municipi della periferia di Roma, insieme a Idea Prisma, il Brutto Anatroccolo, e finanziato dall'impresa sociale con i bambini. Il progetto Totem, al suo interno, racchiude le nuove tecnologie al servizio dell'apprendimento, lo sport per crescere insieme e collaborare, la prevenzione della dispersione scolastica, un sostegno alla genitorialità e poi soprattutto la scoperta e il racconto del territorio. Perfetto, noi mandiamo il primo pezzo che è una dedica di un artista che celebriamo, una dedica di Pirate Radio a tutti gli ascoltatori. Sono pazzo e voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. Sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. Ti sono pazzo. E oggi voglio parlare. Si sento sta nervatura, metta tutto un bacio mio. Iso pazzo, iso pazzo. E chi dice che Masaniello poi dico non sia più bello. E non sono meno mano, sono pure di Romano. E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Iso pazzo. Mi sono pazzo, un ciscassato cazzo. E torniamo in diretta dal Branca. Proseguiamo con la spiegazione di quello che è Totem e passo la palla, passo il microfono ad Aurora. Ciao, sono Aurora e oggi volevo chiedere a Theodore che cos'è la Smart Room. Bella domanda, e ora te lo dirò subito, Aurora. Le Smart Room sono il cuore tecnologico e didattico del progetto pronte ad accogliere attività extracurriculari che coinvolgono gli studenti a partire dai loro bisogni e passioni, hub creativi e tecnologici rivolti alla condivisione e alla scoperta di saperi e esperienze tramite un approccio didattico basato sul gioco, l'esperienza e l'apprendimento di codici e linguaggi che vanno dalla musica al video, dal gaming alla coding, ai primi rudimenti di robotica. Droni, robot, tavolette grafiche, sintetizzatori sono alcuni degli strumenti presenti nelle Smart Room. Insomma, questo progetto Totem è tanta roba e noi proseguiamo con la musica. Un venerdì in aeroporto fermo a Nizza, tu stavi sotto le piramidi di Giza, avevo sabbia sulla lingua a Teheran. Io quando ti cercavo in Cina tu eri a Taiwan. Ho fatto a botte con i ciechi come a Djibouti, tu che salivi sulla luna a Teotihuacan. Io navigavo ad Alicudi, tu Filicudi, tu stavi alle Champs-Élysées quando ero ad Amsterdam. Ti rivelerò il mistero mio, sottovoce qui nei tropici, potrò cambiare emisfero io. Non gireranno al contrario i miei vortici. Io mentre ero a Fushun e tu su Zaga, ero in Zimbabwe tu in Zambia a Lusaka. Io stavo in Madagascar e tu a Capstad, era una foglia che volava verso Baghdad. E tu sei come vento, tempesta in te, io sono come una foresta, una guerra in me. Ci siamo chiusi in un cerchio con una linea per dopo chiederci con cosa confina. Cercami nelle parole, invento una voce che va dove vuole. Corre veloce, oltre la fine, oltre ogni limite. Siamo nati all'opposto, ci vediamo tra poco. Ci mescoleremo soltanto due passi dall'equatore. Due passi dall'equatore, tu sei sull'oceano Pacifico, io nella foresta dell'Ecuador. Insieme a due passi dall'equatore, a due passi dall'equatore, incontriamoci all'equatore. Era domenica, io sono sono stato sulle isole Galapagos, fino a Quito, Porto Rico, risalito poi a Chicago, sono andato in Laos, arrivato prendo il volo per il Mozambico, luna piena era lunedì, si vedeva anche il Taj Mahal, tu come vento eri un fiume di polvere magica negli occhi Kajal, io sono sceso in Antartide, quasi Atlantide, ho ballato con i diavoli in Tasmania, la luce della Tanzania, tuo velo blu, io sono in Transilvania, tua Malibu, e tu sei come vento, tempesta in te, io sono come una foresta, una guerra in me, ci siamo chiusi in un cerchio con una linea, per dopo chiederci con cosa confina, cosa confina. Cercami nelle parole. Tu sei sull'oceano Pacifico, io nella foresta dell'Ecuador, insieme a due passi dall'equatore, a due passi dall'equatore, incontriamoci all'equatore. Io pensavo di seguirti, ma un'illusione, tu eri come un soffio sopra una foglia. Cercavamo di creare comunicazione, sembravamo quasi un uomo ed una donna. Ci mescoleremo come il nero e il bianco, ruberemo solo un punto l'uno dall'altro. Questo vento è veloce, io lo so come arrivare in nuovi luoghi di cui non so il nome. Cercami nelle parole, inventa una voce che va dove vuole. Corre veloce, oltre la fine, oltre ogni limite. Siamo andati all'opposto, ci vediamo tra poco. Ci mescoleremo soltanto a due passi dall'equatore, a due passi dall'equatore. Tu sei sull'oceano Pacifico, io nella foresta dell'Ecuador, insieme a due passi dall'equatore, a due passi dall'equatore. Ricordiamoci all'equatore. Ritorniamo in diretta sempre qui dal Brancaleone. Proseguiamo con quello che cos'è, che è Totem, e passo il microfono ad Aurora che prosegua la sua illustrazione. Ciao di nuovo. Oggi volevo chiedere invece a Mattia che cos'è la banda, oppure laboratorio musicale. È semplice. Ciao. Il laboratorio musicale si svolge nella Smart Room ed è anche come scopo quello di far entrare in contatto tramite il gioco il lavoro di gruppo. Noi ragazzi con il nostro lato musicale si suonano le percussioni, si vedono filmati e parliamo di musica liberamente. E a proposito di musica, andiamo con un altro pezzo scelto sempre dai ragazzi di Totem. Se fate tardi, torna a machine, fai sempre che then you'll never change. Sto Brianna, Ave Maria, torna a casa, parlami, baby. That you love me, that you really want it. Fa cartina filtro, told you that I'm sorry. Tu me fasci bass, piacerei me fasci bass, piacerei andare in... Piacerei me fasci bass, piacerei me fasci bass. Nove, scarta fluisce e poi via primera. No, no, no, go there. Sulla lacrima mattina sera. Che una manzona, una luca. Non poca rindica, ma non pensa. Guarda ma faccia, nana care. So già sei mise, castunga gutte, castunga gutte. Intanto guarda, moia muncen, giunto se gamme, you never change. Te sto priando, anima mia, torna a casa, vola me vami. Tell me that you love me, that you really want it. Fa cartine filter, told you that I'm sorry. Tu me fasci bass, Lo nun e cosa Se vori ma rimane Amsterdam Lo sai nascosto Lo nun e cosa Mi sa tutte se care cancill Siete ma buon Mi carasso Come si vede Don't want to go on Cosa prende Ave Maria Con la mia casa I know why Come here you love me That you really want it Fa cartina e filtra Non c'è da non farmi Come faccio i pass Piacere ma faccio i pass Faccio ricevuto Piacere ma faccio i pass Piacere ma faccio i Piacere ma faccio i pass Se fatte tard, turna machine Fai sempre guest and you'll never change Eccoci qua, siamo sempre in diretta dal Brancaleone, siamo sempre in compagnia Jolly Roger insieme a Totem. Ora passa il microfono agli amici che ci sono venuti a trovare e spiegheranno loro anche alcune cose che riguardano il progetto Totem. Aurora, ora te la faccio io una domanda. Che cos'è la mappatura? E la domanda, Theodore. La mappatura è un progetto... per visitare i vari quartieri del terzo municipio. Noi ci incontriamo certe volte anche per fare delle cacce al tesoro di quello che abbiamo visto e vogliamo conoscere i posti perché ci piace guardare e vogliamo capire il mondo. Ci incontriamo al Mooncraft che è un altro centro aggregativo. Oppure certe volte ci siamo incontrati al The Frag, che è un locale. Via Isole Cursulane, nel terzo municipio. E vabbè, è questo. Che cos'è il QR code? È questa la mappatura. Quindi spero che magari ti iscriverai anche tu. E anche tanti altri. Parlando di mappatura, parlando di terzo municipio, ora scegliamo un pezzo di artisti che appartengono a quello che è il Tufello, il quartiere Libello e Ribelle. Cos'è la setta dei poeti estinti? Sia Roma. Questo è DJ Fast Cut. Fast Cut. Jedi Master Danno. Colle del Fomento. Rockness Monsta. R-A-N-G-O-R-E. Mike Hens. Rancore. Dead Poets. Dead Poets. Poeti estinti. Poeti estinti. Connessione Roma, Brownsville, Brooklyn. E mi capisci, zi? Io col mio rap risveglio spiriti dormienti. Poeti estinti, antichi demoni respinti pure dall'inferno. E tengo sotto scacco stupidi convinti. Mentre lotto con le bestie che escono dal mio quaderno. E sono il mostro, mastro, albero maestro. Sulle vostre menti deboli con un semplice gesto. Jedi su percorsi paralleli che non noti. E c'ho trucchi per voi brocchi come il vecchio Ben Kenobi. Accanna i giochi, i poeti sono tornati. E mosso a versi bus alterni s'affilati. Da Roma fino a Brooklyn, saluta i generali. Scrivi due P maiuscole nel cielo e poi nel fuoco brucia i gradi. Come bestia sopra il muro con i pennarelli. È cibo per la mente dei ribelli. E in mezzo a sti pischelli ancora so cecchino. Lancio rime ai miei coltelli e mo chiamatemi Gioacchino. Belli. Qual è il punto più lontano in cui si sono spinti quei poeti fatti fuori dalla tirannia? Prima legge della setta dei poeti estinti. Detta, devi proteggere la compagnia. Assassino quando rimo sti sonetti. Affino stil nuovi mentre affilo i miei stiletti. Porti spongiovi, metto in fila sti cadetti. Fino a E scommetto che mo smetti. I'm from when you had to know how to rap to be a rapper. If you rap like him, you wasn't a rapper. He was an actor, matter of fact, bruh. That was the shit that I had, niggas ask you. What in the battle, or your head on a platter, or both? Niggas will die for the shit you playing with. It's sad, it's always the ones who be really saying some shit. If God could just give us back P and Fatal Hussein, I would gladly trade away all of these lanes in the game. I ain't even gonna be greedy. I could've added PH and Freaky Ty, Big L and OBB. Pun, Nate Dogg, X1 and Flood DZ. But today's game ain't even worth the first 3B. So many more, them just the ones I chill with. The ones I actually rock with and built with. Had my differences with Big, but fuck that, he's still gifted. We both did it for Brooklyn, that's real shit, nigga. Fast cuts, Danno, Grand Cody, Dead Boys, Poeti Estinti, Roma, Brownsville, like that. Siete capaci di mantenere un segreto? Questo apparato respiratorio non ha pagato le tasse per queste casse di aria condizionata. Come se non bastasse, dagli occhi vedo appannato, nato discatolato in un'area confezionata. La mia galera che non si adatta al tradizionale non tratta, con un legale non scatta, condizionale ma salta da un dizionario a un altro, come una sorta di setta che sottoterra fu stretta dal mio contrario. Essere o non essere, problematici. SOS canta bene la schizofrenia. Tieni, se Roma è l'Eden, dall'Eneide che ci allena come degli ellenici, alienandoci come gli alieni. Color tufello, sembra grigia la folla, e anche io, madonna mia, ho fatto un tempio di cenere, nonostante il fiore sul capitello della colonna. Ora che il colore crolla è una corolla di tenebre. Assassino quando rimo sti sonetti, affino stil nuovi mentre affilo i miei stiletti. Mordi Bon Jovi, metto in fila sti cadetti fino a Backdown, e scommetto che mo smetti. Qual è il punto più lontano in cui si sono spinti quei poeti fatti fuori dalla tirannia? Prima legge della setta dei poeti estinti, detta devi proteggere la compagnia. Qual è il punto della carta in cui saranno scritti i segreti dei poeti dentro la poesia? Quarta legge della setta dei poeti estinti, proteggere la compagnia. Part of my pen, cause what you about to witness begin is a version of manuscription from beginning to end. Man, saw the light, saw the light, ribbons in the chainsaw, draw straight, spit blades, rivers in the brain, pour passion, pieces into pieces, I'm gonna cash in, flashing the heaviest metal popping your sash in. Do it for the rap game, do it for the poets, top five, brightest dead in the block. For Jada, know we got your big puns and big gals. Proof is we've been well, Easy and Pepsi, Mac Dre, ODB, Nate Dogg. Guru, B-Guy on IG, Fatal Hussein, J. Arch, Proverb and Sean P. Spit it through the pain cause they live on from within me. Trayvon and Mike B, all playing your part me. I'm woven deeply in the history's lost, so that depending if our poets ain't lost, he get to live on. E ritorniamo in diretta sempre dal Brancaleone. Abbiamo passato un pezzo di quelli che sono stati i capisaldi dell'hip hop per soprattutto la scena che riguarda il tufello, e proseguiamo con Totem. Questa volta sono io a farvi una domanda. Aurora, Greta, Teodor, Mattia, ma per voi che cos'è Totem? Totem è un modo per incontrarsi con i propri amici, è un modo per studiare, è un modo per imparare a suonare le percussioni, è un modo per giocare a scacchi, è un gioco per divertirsi in generale. Io ho iniziato soltanto per gioco, ma ora mi ci sono affezionata e ci sto da 3 anni. Se si vuole fare qualcosa di bello, si deve provare a fare Totem, perché almeno ti fai nuove amicizie e magari costruisci anche nuove amicizie più durature di quelle che già avevi. Io ho iniziato e mi sono fatta tanti amici e anche qualcuno di vecchio che abbiamo rinnovato la nostra amicizia. Spero che succederà anche a tante altre persone di sentirsi così bene. Quindi ora passo la linea a Mattia. Per me il Totem è un divertimento, perché si potrebbe rincontrare i tuoi amici e poi giocare con tutti e con tutte le cose che vuoi. Io a Totem ci vado da poco, però ma il poco che ci sono stata molto bene e mi hanno aiutato sempre a fare i compiti. Ok, questo è Totem. Passiamo il microfono a un altro dei ragazzi che partecipa al progetto. Allora, Totem è un progetto in cui si può fare anche scacchi.

cose elettroniche, tipo macchine, cioè le costruiamo noi con i circuiti che ci portano, e come se le gli fa, come se le creiamo noi, le programmiamo. Poi lavoriamo con i tablet, i computer e ovviamente anche con tutti gli altri apparecchi elettronici. Con la TV, che a me piace tantissimo, soprattutto con la TV, fare Just Dance. E poi, ora passo la linea ad Aurora, che ci parlerà ciò che è successo in questi tempi di Covid. Ciao di nuovo. Ora vi parlerò del lockdown. Durante il lockdown non ci siamo fermati, per quanto ci piace la smart room, ovviamente. Abbiamo fatto delle videochiamate su Zoom e ci siamo messi a giocare. Abbiamo anche tanto disegnato e parlato di come ci sentivamo. E per questo siamo rimasti uniti. Anche con gli operatori siamo molto uniti e ci piace parlare con loro. Quindi è stato comunque un bel periodo è stato un bel periodo durante le videochiamate, perché almeno ci divertivamo e parlavamo con qualcuno. Insomma, un progetto che anche visti i tempi si è dovuto adeguare a quelle che sono state le situazioni fra lockdown, quarantene e compagnia bella, e noi proseguiamo con la scelta musicale sempre dei ragazzi. Verso l'ultima goccia di veleno, un'altra boccia di odio pieno. Adesso guarda quanti siamo. Questa è Roma e non ce la trovi la firma sotto la tua resa. E mo senti come suona, e mo senti quanto pesa. Ogni macigno che mando giù e che ingoio a forza, la tigre mi ripatisce. Il tempo non scalfisce la mia scorza. Un massiccio forza e scardina ogni serratura sul loop, finché non resta solo questa musica dura. E tu salta come una molla che va giù e che va su, mentre rima sul tempo riparte la mia caccia al marabù. Sta roba buca la bolla, butta giù, tota e metta bu, ogni schiavitù. Quindi se la spingi, spingila di più e porta la clou del gioco fino alla fine nel fuoco, nell'epicentro del rogo, sotto al palco col fomento in mezzo al poco. Perché qui è selvaggio, zì, e non ci trovi dei, ma solamente rime a benedirci. Notti di metallo parlo con te e non passa, passa, passa, passa. Hey! Schivando colpi fra rullate e cassa. Notti di metallo parlo con te e non passa, passa, passa, passa. Hey! Schivando colpi fra rullate e cassa. Oh, te con la mia musa e ci facciamo una chiusa. È il rap che uccide fake, che vuole rime e bazooka. Portano la croce senza chiedere scusa. Tutti quanti apostoli c'è posto per Giuda. È facile comprare un'altra fede nuziale. La parte del carnefice sa chiedere un amen. E che dicono sui titoli del telegiornale? La star della serata cerca a casa una chiave. Ehi, lasciami stare col cuore mezzo quintale, che quando batte un pedale che affonda per accelerare. Ehi, capitano, facci piano che noi siamo tre nella marea di rapper che non hanno mai reclamo. Scrivo senza pari, senza pari. Mille notti dai leoni e i tuoi giorni sono tutti uguali. Nella fiesta delle tigri zero siesta mami. E non confondere l'amore coi preliminari. Se lo capiscono no, scommetto quello che c'ho. Fomento col veleno do, quindi segnali di pericolo. Per tutto quello che so, il vero re dell'hip hop ricorda il nome di chi ha primo piano titolo. Spirito che suona, suona, suona, suona. Lo spirito che suona, suona, suona, suona. Yeah. Quando entro sulla

so. Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. Ah, ecco. Si è tutto guasto questo posto quando esco. E ce lo so. Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. E come no. È tutto guasto questo posto quando esco. So. Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. Sì, sì, sì, sì, sì. Resta, gira mentre tutto è fermo. State tutti con gli occhi incollati allo schermo. Vecchio teschio, rimetto l'elmo. Poi salgo sul palco con Fino Anselmo. Pantera, sulla tua primavera e bufera. Re prima era, sputo le mie barre sopra le chitarre, per mandarvi tutti sotto. Vecchia maniera, old school. Bibbia col nome, re della foresta. Sergio Leone, regista. Freestyle a motore, rima frusta dalla casa del dolore. Via, carico l'artiglieria. Cozzo Frank e Bruce, facciamo pulizia. Animali da palco sulla batteria. Nella vostra industria siamo un'anomalia. Un errore che non si corregge. Le tue scuse adesso non tengono. Resta un tag che non riesci a leggere. Non importa se non lo comprendono. Tu aspendono a più furbo mercante. Alla moda imperante. Io resto protetto fra casse rullante. Vecchio teschio, metallo urlante. Tutto guasto questo posto quando esco. Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. Tutto guasto questo posto quando esco. E ce lo so. Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. E come no. È tutto guasto questo posto quando esco. E ce lo so. Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. E come no. È tutto guasto questo posto quando esco. E ce lo so. Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. La mia testa è ferma ma tutto gira. Vecchio teschio in guerra, manco prendo la mira. Faccio fuoco sulle vostre file. Sto in bilico su un asse che va alla deriva. Tiratore scelto, sniper. Ti parto nel mio cubo, hyper. Aizen contatto ma sto con la faccia da matto. Spider! Questa la capisci domani, e domani è già tardi. Do la caccia a fantasmi lontani. La mia banda riporta a casa i bastardi. Scendo con il suono del K.O. Vecchio teschio coi buchi in testa. Tutto a posto qua intorno e come no. Tutto bene finché dura la festa. Ma mo qua c'è chi te stende. Accendo il joint sulle tratte di una Fender. Tutto ok, solo un altro banger. Quando calo con i goblin e gli orchi. Warhammer, whatever. Fuori dalla tana, murena. Si aprono le gabbie, trema l'arena. Questo è vecchio teschio, metallo in vena. Tutto guasto questo posto quando esco. Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. E come no. È tutto guasto questo posto quando esco. E ce lo so. Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. E come no. È tutto guasto questo posto quando esco. E ce lo so. Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. E come no. È tutto guasto questo posto quando esco. E ce lo so. Ma è tutto a posto dentro questo vecchio teschio. Noi sopra il mito ancora squaglia ormai, mentre voi state a farli botti per brulai. Con la schiuma alla bocca e la smania del successo, è la gara chi resiste con la testa dentro il cesso. Noi sopra il mito ancora squaglia ormai, mentre voi state a farli botti per brulai. Con la schiuma alla bocca e la smania del successo, è la gara chi resiste con la testa dentro il cesso. E torniamo sempre in diretta dal Brancaleone. E ora proseguiamo con i ragazzi. Ciao a tutti, spero che grazie a questo nostro intervento in radio abbiate capito un po' di più di quello che è il progetto Totem. E se volete venirci a trovare, vi aspettiamo nella Smart Room. E per trovarci basta entrare, per chi si sia sintonizzato ora, basta entrare o su Facebook e cercare Totem e ci troverete, oppure su Google Totem Terzo Municipio e ci troverete alla scuola Piazza Filattiera. Perfetto, detto questo, ultimo pezzo per i ragazzi e poi torniamo per i saluti. Lo sai, la testa è malata, lo sai, non voglio pensarti.

tiri sul morale. Prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo da un conflitto irrisolto. Vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio. Dal conflitto in Kosovo chi se ne sbaglia.